Queste cose, dunque, dice il pedagogo, ho voluto dirvi, anche se mi sono comportato un po' duramente nel gestire il piano della salvezza per la vostra emendazione. Ma, invero, chi rimprovera apertamente fa opera di pace. Perciò, se mi ascolterete, sarete salvi, ma se non farete attenzione a quel che vi ho detto, ciò non mi riguarda. O meglio, mi riguarda in questo modo. Poiché egli preferisce la conversione del peccatore piuttosto che la sua morte. Se mi ascolterete, mangerete i beni della terra, dice ancora il pedagogo, chiamando beni della terra i beni umani, cioè la bellezza, la ricchezza, la salute, il vigore e il cibo. Ma i veri beni sono quelli che orecchio non udì, né ascesero mai al cuore, quelli che sono realmente veri beni e che sono presso colui che è veramente re. Beni che ci attendono. Egli infatti è il datore e il custode dei beni ed è per partecipazione e comunanza ai beni divini che quelli di quaggiù sono detti per sinonimia anch'essi beni, giacché il Logos, in qualità di pedagogo, guida divinamente la debolezza degli uomini dalla realtà sensibile alla percezione intellettuale. Le cose a cui dobbiamo fare attenzione a casa e il modo in cui emendare la nostra vita ci sono già stati abbondantemente esposti dal pedagogo. Quello su cui invece egli vuole ancora intrattenere noi bambini lungo il cammino, cioè fino a quando ci avrà condotti al maestro, sarà oggetto della sommaria esposizione che ci presenta ora, servendosi delle sacre scritture, i cui precetti egli ci porrà davanti svelati, adattandoli a questo tempo in cui siamo da lui guidati, ma lasciando poi al maestro la spiegazione recondita. La sua legge, infatti, ha per scopo di far svanire il timore, dopo aver reso libera la nostra volontà, chiamandola alla fede. Ascolta, dice, o bambino beneducato dal pedagogo, i principi della salvezza. Io ti svelerò il mio modo di comportarmi e ti presenterò questi bei comandamenti, tramite i quali perverrai alla salvezza. Io ti conduco per il sentiero salutare. Allontanati dunque dai sentieri dell'errore, poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina. Segui, o bambino, il sentiero buono che io ti indicherò. Prestami orecchie disposte ad ascoltare e io ti darò tesori celati nell'oscurità, nascosti, invisibili ai pagani, ma visibili a noi. I tesori della sapienza non vengono mai meno e l'Apostolo, ammirandoli, dice: «O profondità della ricchezza e della sapienza! I tesori sono molti, ma tutti elargiti da un solo Dio. Gli uni sono rivelati per mezzo della legge, gli altri per mezzo dei profeti. Alcuni risuonano in armonia con la voce di Dio, altri con il settenario dello Spirito, ma uno solo è il Signore, pedagogo, che guida per mezzo di tutte queste cose». Brani scritturistici che invitano al bene. Abbiamo innanzitutto un precetto fondamentale, una raccomandazione vitale che ingloba tutto il resto. Come volete che gli uomini facciano a voi, fate anche voi a loro. È possibile riassumere i comandamenti anche in due precetti, come dice il Signore stesso. Amerai il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza, e il tuo prossimo come te stesso. E poi aggiunge: tutta la legge e i profeti si fondano su questi due precetti. A colui poi che gli chiese «Che devo fare per ereditare la vita eterna?» disse «Tu conosci i comandamenti?» Avendo quegli risposto affermativamente, concluse «Metti in pratica ciò e sarai salvato». Tuttavia bisognerà ora esporre più in dettaglio l'amore che il pedagogo ha per l'umanità e che egli esprime tramite multiformi e salutari comandamenti. Così, da un'abbondante citazione di brani scritturistici, potremo ottenere più facile accesso alla salvezza. Abbiamo, per mezzo di Mosè, il Decalogo, rappresentato da una lettera semplice e unica. Esso allude quindi al nome che ci salva dai peccati. Non commetterai adulterio, non commetterai idolatria, non commetterai pederastia, non ruberai, non presterai falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre, e le altre parole che seguono. Queste cose dunque noi dobbiamo osservare come pure tutte le altre che ci vengono raccomandate leggendo i libri sacri. Per bocca di Isaia, ad esempio, il Signore ci esorta: «Lavatevi, siate puri, eliminate le malvagità dalle vostre anime al mio cospetto, imparate a fare il bene, ricercate il retto giudizio, liberate l'oppresso, fate giustizia all'orfano e alla vedova, e poi venite e parliamo insieme», dice il Signore. Possiamo trovare molte raccomandazioni anche presso gli altri profeti, ad esempio riguardo alla preghiera. «Le opere buone sono una preghiera a Dio gradita», dice la Scrittura. Viene poi suggerito anche il modo della preghiera. «Se vedi uno ignudo, rivestilo, e non negligere i tuoi parenti di sangue. Allora la tua luce sorgerà fin dal mattino e la tua guarigione arriverà presto. La tua giustizia camminerà davanti a te e la gloria di Dio ti circonderà». Quale sarà dunque il frutto di tale preghiera? Tu griderai e Dio ti ascolterà. Mentre ancora parlerai, ti dirà: «Eccomi». Sul digiuno e i sacrifici. Riguardo al digiuno dice: «Perché digiunate per me?» dice il Signore. «Non è questo genere di digiuno che io volevo, né ho scelto un giorno in cui l'uomo umiliasse la sua anima. Anche se tu curvassi il tuo collo come un gancio e ti gettassi su sacco e cenere, nemmeno allora potrai chiamare ciò un digiuno gradito a Dio». Che cosa significa allora il digiuno? «Ecco, questo è il digiuno che io volevo», dice il Signore. «Sciogli ogni legame di iniquità, abroga i vincoli dei contratti coercitivi, rimanda in libertà gli oppressi e strappa ogni contratto iniquo. Dividi il tuo pane con l'indigente e prendi in casa tua i poveri senza tetto, e se vedi un ignudo, vestilo». Riguardo ai sacrifici, «Che mi importa della moltitudine dei vostri sacrifici?» dice il Signore. «Sono sazio degli olocausti di arieti e non voglio il grasso di agnelli e il sangue di tori e di capri, neppure se veniste a presentarvi a me. Chi ha chiesto tali cose alle vostre mani? Smettetela di calpestare i miei atri. Se mi portate fior di farina è inutile e l'incenso mi è in orrore. Non sopporto i vostri noviluni e i vostri sabati. Come allora sacrificherò al Signore?» Sacrificio per il Signore, dice, è uno spirito contrito. «E come farò l'offerta delle corone e l'unzione con l'unguento? E quale incenso brucerò al Signore?» Profumo di soave odore per Dio, dice, è un cuore che glorifica colui che l'ha plasmato. Queste sono le corone, i sacrifici, gli aromi e i fiori di Dio. Sul perdono, la carità e la giustizia sociale. Riguardo al non serbare rancore, se tuo fratello pecca, rimproveralo, ma se si pente, perdonagli. E se 7 volte al giorno pecca verso di te e 7 volte si rivolge a te dicendoti «mi pento», perdonagli. Quanto ai soldati, il Signore, per mezzo di Giovanni Battista, li esorta ad accontentarsi del proprio stipendio e ai pubblicani raccomanda di non esigere più di quanto sia loro stato ordinato. Al giudice poi dice: «Non avere riguardi personali nel giudicare, poiché i regali accecano gli occhi dei vedenti e corrompono le sentenze giuste. Soccorrete gli oppressi». E agli economi dice: «Una ricchezza acquistata con l'ingiustizia decresce». E riguardo alla carità: «La carità ricopre una moltitudine di peccati». Riguardo alla politica: «Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio». Riguardo al giurare e al serbare il rancore: «Io non comandai ai vostri padri, che uscivano dalla terra d'Egitto, di offrirmi olocausti e sacrifici, ma questo comandai loro, che nessuno di voi serbasse rancore nel suo cuore nei confronti del suo prossimo e che non amaste i falsi giuramenti». Ai mentitori e agli altezzosi poi fa minacce dicendo ai primi: «Guai a coloro che dicono dolce l'amaro e amaro il dolce», e ai secondi: Guai a quelli che sono intelligenti ai propri occhi e sapienti a cospetto di se stessi, poiché chi si umilia sarà esaltato e chi si esalta sarà umiliato. Proclama beati i misericordiosi, poiché essi otterranno misericordia. E la sapienza deplora la collera, poiché essa manderà in rovina anche i prudenti. Poi ci comanda di amare ormai i nemici, di benedire quelli che ci maledicono e di pregare per quelli che ci calunniano. A chi ti percuote su di una guancia, dice, porgi anche l'altra. E se qualcuno ti porta via il mantello, non rifiutargli anche la tunica. Riguardo alla fede, tutto ciò che chiederete nella preghiera con fede, lo otterrete. Nulla è degno di fiducia per chi non ha fede, dice Pindaro. Bisogna trattare i servi come se stessi. Anch'essi, infatti, sono esseri umani come noi. Dio è uguale, sebbene osservi, per tutti, per i liberi e per gli schiavi. Sulla correttezza, il pentimento e la beneficenza. Quanto ai servi che commettono delle colpe, non bisogna punirli, bensì rimproverarli. Chi risparmia il bastone, dice, odia suo figlio. Il Signore respinge inoltre l'amore per gli onori, dicendo, guai a voi, o farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze. Ma egli accoglie con gioia il pentimento del peccatore, poiché ama il pentimento che segue ai peccati. Egli solo, infatti, il Logos, è senza peccato. Ora, il peccare è innato in tutti ed è comune, ma il risollevarsi dal peccato non è proprio di un uomo qualunque, ma di uno degno di stima. Riguardo alla generosità, dice, «Venite a me, voi tutti benedetti, ereditate il regno che è stato preparato per voi sin dalla fondazione del mondo, poiché io ebbi fame e voi mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi soccorreste, fui ignudo e mi vestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi». Ma quando noi abbiamo fatto qualcosa di ciò al Signore? Ci risponderà il pedagogo stesso applicando a sé le opere di bontà che abbiamo compiuto con carità verso i fratelli. Nella misura in cui lo avete fatto a questi piccoli, lo avete fatto a me, e costoro andranno alla vita eterna. Brani del Nuovo Testamento sulla bontà, le relazioni in famiglia e la fede. Tali dunque sono le leggi del Logos, le parole logoi di esortazione non scritte dal dito del Signore su tavole di pietra, ma inscritte nei cuori umani, i quali soli non sono soggetti a corruzione. È per questo che le tavole dei duri di cuore furono spezzate, cosicché la fede dei piccoli venisse incisa in spiriti teneri. Entrambe le leggi hanno servito il Logos per educare l'umanità, l'una tramite Mosè, l'altra tramite gli Apostoli. Ecco allora la pedagogia messa in atto per mezzo degli Apostoli. Anche di questo genere di pedagogia mi sembra necessario trattare, o piuttosto, è il pedagogo stesso che parla, riprendendo le mie stesse parole, getterò di nuovo come semi i miei comandamenti. Abbandonate la falsità e parlate con veracità ciascuno verso il suo prossimo, poiché siamo membra gli uni degli altri. Il sole non tramonti sulla vostra ira e non date occasione al diavolo. Chi ruba non rubi più, ma piuttosto si adoperi con fatica a compiere il bene, affinché abbia di che far partecipe chi è nel bisogno. Si tolga di mezzo a voi ogni asprezza, rabbia, risentimento, clamore, calunnia e ogni malizia. Siate gli uni verso gli altri buoni, misericordiosi, pieni di grazia fra voi, come anche Dio è stato pieno di grazia verso di voi in Cristo. Siate saggi e imitatori di Dio come figli diletti e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati. Le donne siano sottomesse ai loro mariti come al Signore, e gli uomini amino le proprie mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa. I coniugi si amino a vicenda come i propri corpi. Voi figli obbedite ai vostri genitori, e voi padri non esasperate i vostri figli, ma allevateli nell'educazione e nella disciplina del Signore. Voi, servi, obbedite ai vostri padroni carnali con timore e tremore, con semplicità di cuore, come a Cristo, servendoli con tutta l'anima e con benevolenza. E voi, padroni, siate buoni con i vostri servi, lasciando da parte le minacce e sapendo che è sia loro che vostro il padrone celeste, presso il quale non vi sono riguardi personali. Se abbiamo vita dallo Spirito, camminiamo anche seguendo lo Spirito. Non diventiamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Portate gli uni i pesi degli altri, così adempirete la legge di Cristo. Non ingannatevi, Dio non si fa prendere in giro. Non stanchiamoci di fare il bene. Se non desistiamo, a tempo opportuno mieteremo. Siate in pace fra di voi. Noi vi invitiamo, fratelli, ammonite gli indisciplinati, confortate i pusillanimi, sostenete i deboli, siate longanimi verso tutti. Badate che nessuno ricambi il male col male. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie. Esaminate tutto e tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni genere di male. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa per rendere grazie a Dio. Camminate con sapienza verso quelli che sono fuori dalla Chiesa, cogliendo il momento opportuno. Il vostro parlare sia sempre espresso con grazia e condito col sale della saggezza, per sapere come dobbiate rispondere a ciascuno.